ho cominciato a fare un po' di autoanalisi, e ho capito il perché del mio brutto carattere. No, perché? Perché mi sono scavato dentro, no? Sì. Ho cominciato una ricerca interiore, e alla fine ho trovato le spiegazioni dei miei traumi. Ah, interessante, bravo. E sono arrivato alla conclusione che è tutta colpa del primo giorno d'asilo. Sì, perché io me lo ricordo ancora come un incubo, La scena primaria è il primo giorno d'asilo. Sì, perché fino ad allora era andato tutto bene. La mia vita era felice, spensierata. Vabbè, come un bambino, insomma. Finché, improvvisamente, in una settimana abbiamo cambiato casa e io ho cominciato ad andare all'asilo. Cioè, due eventi sconvolgenti per me. Vabbè, ci credo, sì. Trasloco e primo giorno d'asilo non bisognerebbe. Perché poi, la casa nuova era tutta diversa, La mia stanzetta era un posto orrendo, coperta di poster di Che Guevara, di Berlinguer. Ma come? Berlinguer? E poi l'asilo. L'asilo, dai. Perché io, è da un po' che ne sentivo parlare dell'asilo. Ti dicevo. Perché i miei mi dicevano, tra poco andrai all'asilo, E lì potrai giocare con tutti gli altri bambini. Ed è quella frase lì, e lì è cominciata l'ansia. Ma perché? Ma era bello, scusa. Il panico. Ma scusa, bambino Albertuccia, era bellissimo. Invece di stare a casa ad annoiarti con la mamma tutto il giorno, passavi tutto il giorno invece a giocare con dei bambini come te. Ma a me non piacciono gli altri bambini. Cioè, l'idea che avrei trascorso tutto il giorno con altri bambini, mi mandava in sbattimento. Vabbè, comunque dai, poi è arrivato questo primo giorno d'asilo, no? Che cosa ti ricordi? Cos'è sto incubo alla fine? Allora, cominciamo dall'inizio. Mia madre mi ha svegliato presto. Sì. E qui la prima anomalia, perché di solito ero io che andavo da mia madre e la svegliavo, no? Con la bottiglia di porto vicino al letto. Ma cosa? Ma che bottiglia di porto? No, vai avanti. Cioè, allora quindi mi ha svegliato, mi ha lavato, vestito, mi ha fatto fare colazione con caffè, latte e biscotti e poi ho vomitato tutto. Sì, questo è tanto per cominciare. Hai vomitato, ma perché? Perché avevo capito, no? Allora mi sono innervosito e ho regurgitato tutto, ho vomitato tutto. Vabbè, che incubo. Quindi mia madre mi ha rilavato, mi ha rivestito e alla fine me l'ha detto: Albisola, perché anche lei storpia. Oggi è il tuo primo giorno d'asilo, perché io non ho più tempo né voglia di guardarti a tempo pieno, Sei contento? No, vabbè, ma che cattiveria, almeno poteva risparmiarti che non aveva più voglia di starti dietro. Poteva dire bello l'asilo, un luogo fantastico. E io a quella notizia, anche se già lo sapevo, me la sono fatta addosso. Ma come, bambino Alberto, addirittura, vomita, dopo il vomito. Dai. Sì, perché almeno passavo ancora un po' di tempo in casa, no? Perché mia madre ha dovuto rilavarmi, rivestirmi, e nel frattempo era diventata nervosa. E quindi mi sono anche preso due schiaffoni, Che roba, il primo giorno d'asilo cominci con due disastri gastrointestinali, diarrea, vomito, poi due sberle, poi... E poi ci credo che sei diventato così. E non è mica finita, Ecco, vedi. È ancora andata all'asilo. Perché mia madre mi ha caricato in macchina a forza di sberle. Mi ha bendato. Ma come? Mi ha legato, mi ha incaprettato praticamente, E mi ha messo sul sedile di dietro. Ma scusami, bendato. Non mi ha bendato perché io non mi impressionassi. Ma di cosa? Poi incaprettato. Ma che ne so? Io ti ripeto quello che mi diceva la mamma. Smettila di urlare, ti ho bendato per il tuo bene. Ma come? Così non ti impressioni. Ma perché? Ma venir bendato dalla propria mamma non è un'esperienza impressionante. Cioè, molto più impressionante che non vedere dove stai andando. Ma infatti io ero terrorizzato, E dicevo, ma dove mi porti? Dove mi porti, mamma? Al macello. E lei, all'asilo, dalle suore. Allora mi spaventavo ancora di più perché le suore sono vestite di nero, Sì. Quindi siamo arrivati. E lei quando mi ha tolto la benda, eravamo qui davanti all'asilo. Sì. E a quel punto lei mi ha detto: Albertengo, guarda il vicino. Perché anche il primo giorno di scuola, con l'ansia, mi storpiava il nome, no? Albertengo, guarda il vicino. Io mi sono girato e lei è scappata via. Ma quando mi sono girato lei non c'era più. Vabbè, ma è disumano, scusa, si fa così coi cani. Ma non si fa coi bambini, ma no, comunque. Infatti. Col cane i miei l'hanno già fatto, Cioè? Come? L'hanno fatto scendere a fare la pipì sulla 1, no? Vicino alle Cimiglia. E poi sono spariti. Ma cosa? Ma. No, bambino Alberticcia, dici che non è vero. Alberticcia. Ma cosa? Che avete abbandonato un cane in autostrada. No, non può essere vero, Ma certo, non lo sopportavamo più. Ma come no? Ma nemmeno tu? Nemmeno un cane, io. Un bambino, ma dai, vabbè. Ma che famiglia! Ma non si fa. Sì, ma guardate che l'abbiamo lasciato vicino agli archi di Calatrava, E quelli sono bei posti. No, Tito, tranquillo, tanto a te non succede, no, infatti, lo giuro, no. Ma insomma, comunque, torniamo al primo giorno d'asilo. Sì, archi di Calatrava, sì. Che la mamma se n'era andata. e quindi panico. Io mi sono trovato come il cane di Reggio Emilia. Vabbè, così impari ad abbandonare i cani, eh? Come ti sei sentito? Ti sei sentito tradito e abbandonato? Sì, sono andato in sbattimento di brutto. Penso al cane, vabbè. Tutti i bambini mi fissavano, io fissavo loro. Vabbè. Cioè tutti si fissavano l'un l'altro, è tutto un fissarsi, perché tutti timidi, tutti in paranoia, pesante, eh? Perché appena arrivati lì con la sveglia, tutti la stessa sveglia hanno avuto. Tutti, magari no. Nessuno è stato bendato, secondo me. Comunque. No, io mi sono reso conto che ero più in paranoia degli altri. Perché infatti poi gli altri, col passare dei minuti, hanno incominciato un po' a scambiarsi qualche parolina, a giocare, a fare amicizia. Soprattutto giocare, no? Uno gioca. E io no, io mi sono messo nell'angolino con Gildo. Ma che non esiste. Come non esiste? È immaginario, non si vede, non si è mai visto. Dov'è? Vabbè, perché adesso non c'è, no? Cioè, adesso voi dite non esiste che non lo vedete. Non lo vedete perché non c'è, che discorsi sono. Se domani venite qui, a quest'ora, ci sarà Gildo, sì, e lo vedete che voi, no? Vabbè. Che discorsi? Vabbè, quindi, bambino Alberto, tu che cosa consigli ai genitori che devono portare i figli all'asilo per la prima volta? Cioè, sulla base della tua esperienza, come possono rendere questo giorno meno traumatico? Di potermi rendere utile. Infatti, dimmi. Per quel che ho imparato dalla mia esperienza, credo che abbia sofferto meno il cane abbandonato alla gemiglia di me. Quindi io consiglio ai genitori di tutti i bambini di andare solo uno e di lasciare i bambini sotto gli archi di Calatrava. È un bel posto quello lì, eh. Finocchi col supplì! E mandate le vostre ricette alternative per cuocere i finocchi a chiedosilo@radio24.it. Ma prima ringraziamo i bambini Alberto Caserini, Daniel Plenz, Margherita Ina e Lamezia Terme. Scusa, volevo dire Carmelo Lauricella. Ti è venuto Lamezia Terme. Sì, per assonanza.